Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Ieri sera abbiamo parlato di come il verde urbano abbia un forte impatto, per esempio, sul microclima urbano, proprio sulla qualità della vita sotto le fronde degli alberi, che soprattutto d'estate è molto diversa da quella su una spianata di cemento e asfalto. Ieri abbiamo anche parlato del fatto che luoghi come questi, o non luoghi come forse piacerebbe dire a qualcuno, come i parcheggi, possono in realtà diventare, magari fuori dalle ore di punta di parcheggio, anche luoghi dove i bambini possono giocare. Bastano dei segni per terra, dei grafismi come il vecchio gioco dell'oca. Ma io c'è una cosa che mi chiedo tutte le volte quando entro in uno di questi grandi parcheggi: è vero, questi alberelli striminziti che forse tra 10 o 20 anni daranno un po' di soddisfazione? E mi chiedo, ma è possibile che non si possa fare qualcosa di meglio? Allora lo chiediamo, perché anche di questo è esperta, Novella Cappelletti, che è direttrice di paesaggio e che è tornata a trovarci. Buonasera. Buonasera. È possibile che bisogna mettere sti cosi ridicoli? No, assolutamente no. Cito l'esempio, uno degli esempi più eclatanti, appunto il progetto di Peter Walker per Ground Zero, dove sono state collocate 400 querce, tutte uguali, tutte sviluppate più o meno, diciamo, nella stessa dimensione, e collocate in questo luogo che è tra i più urbanizzati della città. Quindi ecco, questa è già una risposta per dirle che è possibile. È possibile non mettere questi manici di scopa, è, no? Possibilissimo. Qual è il problema? Costa tantissimo. Io non riesco a capire, ho la sensazione che con poche ore di incasso di un grande centro commerciale investite all'inizio, insomma, quando si progettava tutto il parcheggio intorno, si sarebbero potuti fare miracoli. Direi che c'è poca consapevolezza delle possibilità che il mercato italiano può offrire. Basti pensare che le aziende italiane nel settore del vivaismo esportano in 56 paesi e fatturano più del settore dell'olio e del vino, quindi direi che addirittura cioè sì. In questo mercato, per esempio, delle piante adulte, lei dice? Sì, esattamente. Le piante italiane sono tra le più, diciamo, qualitativamente considerate nel mondo, vengono esportate da aziende che hanno sede in Italia e che producono in maniera del tutto, come dire, esemplare queste specie. A Pistoia, che è uno dei comparti più importanti d'Italia, è nato per esempio il primo Nursery Park, che un'azienda ha realizzato proprio come uno showroom all'aperto di piante adulte. Sì? In vaso. Dove poterle scegliere. Cioè uno va là e vede, non so, vede una sequoia in vaso. Sì, piante, diciamo, di più tradizione europea, sì, quindi quelle più, esatto, ma certamente di grandi dimensioni, dove l'acquirente, il committente, va e le può vedere. Mi piace quella quercia, esatto, lì di 50 anni. Questo parco, tra l'altro, è aperto anche in alcuni orari al pubblico, quindi in qualche modo un'operazione che cerca di comunicare questo concetto. Ci sono anche poi le aziende che realizzano le opere verdi, quindi i costruttori del verde, che si sono specializzati al pari delle aziende che ovviamente costruiscono in edilizia, con la stessa capacità nella costruzione del verde, quindi con tutte le conoscenze tecniche e agronomiche per poter lavorare in maniera assolutamente professionale. È chiaro che in una città non è piantare un albero non è come piantarlo in un'area libera. La città è al di sotto della quota, diciamo, della pavimentazione, è fortemente infrastrutturata con tutta una serie di cavi, ovviamente di sottoservizi, ma al di là di questo tutto è possibile. Ecco, questo ci tengo a sottolineare, è un problema di scelte che bisogna vedere proiettate nel tempo e che migliorano di gran lunga la qualità della vita. Cioè, queste cose bisogna trattare con chi, per esempio, realizza un centro commerciale. Quando si fa il progetto bisogna trattare e imporre certe cose, insomma, sì, stringi, no? O anche il condominio, o anche la strada, qualsiasi cosa. Si tratta sempre di considerare, diciamo, la responsabilità che il paesaggio verde di una città ha nella vita di tutti noi, e quindi anche negli elementi, diciamo, di questa nuove tendenze, come quella del verde pensile. Addirittura delle pareti verdi, sì, ormai sì, si possono sì, fare. E questo fa parte, diciamo, di un panorama di tecnologie oggi a disposizione assolutamente possibili. Nel tema delle smart city, l'albero di per sé è forse la tecnologia più intelligente di cui disponiamo, e sarebbe straordinario vederne collocati quindi in grande misura. Grazie Novella Cappelletti. Prego. È tutto, appuntamento a domani.